a tutti i frate, non ci so più sopra sta terra. Sente ca, gente che spera in un domani migliore, gente che aspetta ancora un raggio di sole, gente impotente senza parole, con sogni e speranze nascoste nel cuore. C'è gente che al mattino è mai dal posto del loro, perché? Perché loro un buongiorno corrisponde con lavoro che non è un posto in banca, nemmeno in un ufficio. C'è gente che trasforma la sua vita in sacrificio. Ma tu che non sai, che cazzo vuoi sapere? Restare sempre in piedi e non potersi mai sedere. Pure quando cadi ti devi rialzare, no, non puoi stare male perché gira a travagliare. C'è gente che nasce, c'è gente che cresce, c'è gente che aspetta la vita felice, c'è gente che pare e non duca sente, c'è gente che non ha risa ma c'è gente che cante. C'è gente che nasce, c'è gente che cresce, c'è gente che aspetta la vita felice, c'è gente che pare e non duca sente. Ma lo tempo può sapere se scampa con l'acqua, cavagna sto vento, t'asciuga il nome, c'è faccio una cosa, se fai accetto, mancia vince, metto un po' campare, non sa cata cosa, con questa talera, con nave da sbaglia, con un ciavaglia. Sentono buono, suscia con la raglia. E poi arriviamo, come canciamo, gente raggiungere, chiedo che siamo, gente remiglia, gente regore, forse sta vita che come l'amore. E poi arriviamo, come canciamo, gente raggiungere, chiedo che siamo, gente remiglia, gente regore, forse sta vita che come l'amore. La gente, la gente, la gente, la gente, la gente.